Gentili amici, un cordiale buon pomeriggio, buonasera da Radio Alma. Chi vi parla è Roberto Giava e per questa sera tutta Bruxelles ascolterà per la prima volta in assoluto la voce di Deda Fiorini. E vi chiederete chi sarà mai questa Deda Fiorini. Bene, cari amici, tra un attimo le daremo la parola. Deda Fiorini è una nuova, affascinante, bravissima, intraprendente ragazza che lavora con noi qui a Radio Alma 101.9. Siamo in diretta e avremo in diretta Deda tra poco e ci presenterà il suo nuovo programma, Nuovo Tizzecca, 100 città. Un viaggio attraverso tutte le città d'Italia, le più di 100 province italiane, sono esattamente 104. E allora Deda proviene da Ravenna, questa sera ci parlerai di una città in particolare, ma intanto ti do l'occasione di presentarti. Ciao, già inizio appunto 100 città, come vi diceva prima Roberto, trasmissione che vi terrà compagnia una volta a settimana, con me al microfono e Giulio in regia. In ogni puntata vi racconteremo una città italiana ed è con Bologna che abbiamo deciso di inaugurare questa prima puntata. Bologna è capoluogo della regione Emilia-Romagna ed è collocata nella parte emiliana. Periodi difficili e drammatici dove la politica ne è stata protagonista, in primis quella che viene ricordata a malincuore come la strage di Bologna, dove nel 1980 una bomba causò 85 morti nella stazione centrale. L'orologio principale si fermò alle 10:25 ed ancora adesso lo si può vedere fermo su quell'orario. La fede politica è sempre stata molto accesa tra i giovani bolognesi ed oggi, fortunatamente, non si manifestano più fatti violenti collegati ad essa. Grazie ad una forte presenza di giovani, essendo città prettamente universitaria, Bologna è sicuramente una città originale e creativa. Già da... Allora, attenzione, noi siamo sempre in diretta, non dimenticate, questa è 100 città. Lo ribadiamo a beneficio di quanti coloro si fossero posti soltanto adesso all'ascolto di Radio Alma 101.9 e chi avete appena ascoltato è Deda Fiorini, la nostra nuova... Grazie alla cattedra universitaria riservata alla musica da Papa Nicola V, a Bologna si sedimenta il sapere dei più illustri teorici dell'epoca, protagonisti di lezioni musicali memorabili. Facciamo un salto di quasi 500 anni, un uomo bolognese rivoluzionerà il mondo della comunicazione. Chi è Giulio? Un uomo bolognese è senza dubbio Marconi. Grandissimo, grandissimo. Buon vecchio Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi che l'8 dicembre del 1890 ha trasmesso il primo segnale transoceanico. Perfetto. Dalla collina di Pontecchio. Di mamma mia, come, Giulio, come sì. La località, bisogna dire che la località poi ha preso il nome Pontecchio Marconi. Non mamma mia, niente. Giulio è una fonte inesauribile, veramente di conoscenza. Ma è grazie anche all'amico Simone, appena arrivato dall'Italia. Benvenuto Simone, ciao. Inoltre, anche la prima radio libera nella storia italiana è bolognese e risale al 1970. 72. 4. E si chiamava Radio. Radio Alice. Il fenomeno della radio libera è stato un momento molto importante nella storia del costume del bel paese. Voce della cultura alternativa, di inchieste giornalistiche controcorrente della musica pop e rock che allora incominciò a diffondersi nella società italiana. Il sistema dello spettacolo dal vivo a Bologna è ricco e vario. La città offre un elevato numero di spazi e appuntamenti per quanto riguarda il teatro, la musica e la danza. Grazie alla prolifica attività di importanti istituzioni culturali, ha una fittissima rete di associazioni e gruppi giovanili, come il Dipartimento Musica e Spettacolo dell'Università. Nessun ambito è tralasciato, dalla tradizione alla ricerca, alla sperimentazione. Bentornati a Radio Alma, abbiamo qui come ospite Annalisa direttamente da Bologna, alla quale faremo delle domande per sapere qualcosa in più su questa splendida città. Benvenuta Annalisa, ciao. Grazie Deda, buonasera a tutti i posti dove divertirsi, culturalmente molto, molto vivace, anche in città universitaria, quindi c'è la possibilità di conoscere tanti giovani che vengono da più parti d'Italia e anche giovani che vengono dall'estero, tanti studenti Erasmus, l'Università Johns Hopkins, quindi per stranieri, quindi insomma una città dove sicuramente facile conoscere, conoscere persone, persone di, anche di diversi paesi e che vengono anche da diverse città italiane. Sì, sì, pericoloso, almeno questo senso di insicurezza non si percepiva. Ok, e quindi il fatto che sia diventata sempre di più una città prettamente a misura di giovane ha inciso negativamente sulla vita delle famiglie e degli anziani? Comunque Bologna offre un'ottima qualità di vita sia per le famiglie che per gli anziani. Chiaramente nel caso di Bologna, lo si diceva in precedenza, principalmente giovani italiani che vengono da diverse zone d'Italia, dal centro, dal sud. Bruxelles è luogo d'incontro di persone che invece vengono da tanti paesi diversi. E poi tutte e due sono città molto artistiche, che danno molte possibilità ai giovani di esprimersi musicalmente, ci sono anche tante mostre di pittura. Sì, sicuramente entrambe sono molto ricche, molto vivaci da un punto di vista culturale. Bologna vale la pena vederla quindi per farsi un giro sotto i portici, in centro, per ammirare le due torri, per fare un giro sui colli. È una città artistica piena di musicisti che dà ampio spazio a gruppi musicali emergenti che si mettono in luce per la loro voglia di creare stili innovativi e musiche elaborate. Da giovani jazzisti a bands rock o metal, i locali offrono serate interessanti e coinvolgenti, grazie a contest di band nuove, come per esempio la Cantina Bentivoglio, che ospita gruppi jazz da tutto il mondo. Cosa ci dici? Allora, ti dico che io ho sempre girato in bicicletta a Bologna. E infatti tutti gli studenti... si armano di bicicletta, sì, esatto. E vanno in giro così. È la cosa più pericolosa che tu possa fare. Nel tragitto ingegneria-appartamento sai di rischiare la vita almeno 3 volte. Eh sì, anche perché le macchine sfrecciano belle forti a Bologna. Sì, ed è un po' un'anarchia. La crew universitaria è ben organizzata e attiva e spesso si può assistere a concerti e spettacoli gratuitamente se si è studenti. Se avete venuta voglia di visitare questa città, potete visitare il link del comune, che è www.iperbole.bologna.com. Qui troverete concerti, spettacoli, eventi di ogni genere per tutti i gusti. Giulio, tu hai avuto possibilità di assistere a degli eventi, a dei concerti gratuitamente perché eri studente? Ma ho assistito a eventi in piazza. Beh, in piazza è gratuita per forza. Sì, ovviamente. Perché ma libera... è gratuita per tutti. È gratuita per tutti, sì. Ma avevi agevolazioni particolari? No, direi di no. Non avevi, ma forse non le hai sfruttate forse non le ho perché... sfruttate. Sai che è la vita dell'ingegnere. Tu, essendo studente, potevi andare a teatro pagando 5 euro anziché 30. Ah, me la sono persa questa. Potresti andare a vedere delle pièce teatrali, potresti andare in molti eventi culturali senza pagare perché hai la fortuna di essere uno studente. Alla prossima, Giulio. Alla prossima. Purtroppo vita. È andata è così. Perduta. È perduta. Ho iniziato a lavorare, purtroppo. Allora, noi siamo giunti alla conclusione del programma. Ringraziamo Annalisa. Beh, grazie Deda, grazie per avermi ospitata ai microfoni di 100 città e un grosso in bocca al lupo per la trasmissione, ciao. Grazie ancora che hai risposto a delle domande che non erano per niente facili e Giulio che è sempre pronto ad ogni intervento, sempre pronto a darci la sua. Prontissimo. Prontissimo, allora vi salutiamo, siamo sempre pronti e vi aspettiamo alla prossima puntata, ciao. Ciao.